La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, come sempre, alle 6 della sera del sabato. Sembra quasi uno scioglilingua. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Come sempre, tutto il cinema che c'è in sala, soprattutto in sala, ma anche in casa, i nostri giochi, i migliori film della stagione da vincere in Blu-ray. State con noi, ve lo dico sin dall'inizio, il nostro indirizzo di posta elettronica, La Rosa Purpurea, @radio24.it, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Settimana carica di film che sono arrivati nelle sale. Giovedì 13 le nuove pellicole, con un livello qualitativo sicuramente superiore alla settimana scorsa, in cui la quantità era uguale, ma motivazioni popolari, di pubblico, di star o anche semplicemente di qualità intrinseca dei film, davvero ce n'erano pochine. E allora cominciamo subito con un film di cui si è parlato molto anche nelle scorse settimane. È uno dei film più annunciati di questa stagione, perché il tema è un tema forte, interessante, bizzarro. Cosa potrebbe succedere se, puta caso, chissà, con una macchina del tempo o qualcosa di simile, ai nostri tempi ripiombasse lui? E lui non è il lui che tutti pensate, lui è niente meno che Adolf Hitler. Come desidera essere chiamato questa sera? Signor Hitler può andare bene, ma se preferisce può chiamarmi Mein Führer. Il suo nome l'ha detto lui, in realtà non servirebbe, perché il suo aspetto è inconfondibile. I baffi, la pettinatura, tutti sanno che è Hitler, l'incarnazione del male assoluto. Il vero Hitler, si badi bene, non un sosia come pensa all'inizio la maggior parte delle persone che incontra. Cosa succederebbe se questo male assoluto che il mondo ritiene di aver seppellito con la Seconda Guerra Mondiale tornasse? Cosa succederebbe se Adolf Hitler si risvegliasse a Berlino nel 2014 convinto di essere ancora nel 1945? Lui è tornato, racconta questo. Hitler che parla come in un filmato dell'Istituto Luce, che non risparmia commenti politicamente scorretti per noi, come faceva nel libro omonimo da cui è tratto. Della Germania, per esempio, dice: al vertice del paese c'era una donna tozza che infondeva lo stesso ottimismo di un salice piangente. Inizialmente viene scambiato per un imitatore e lui sfrutta questo e i mezzi di comunicazione, ovviamente è talmente perfetto da fare audience, per ricominciare la sua ascesa al potere. Hitler è Oliver Masucci. 2 ore di trucco al giorno e 20 kg in più per somigliare il più possibile al Führer. Girava a Berlino con la scorta durante le riprese. Riprese fatte non solo su copione e con attori, ma anche improvvisando in strada con le reazioni della gente comune, come era stato per Borat. Non è il dittatore di Chaplin, non è l'Hitler ricreato nei ragazzi venuti dal Brasile, non è quello delle vecchiette di Mel Brooks. È lui che riporta oggi il suo messaggio. E la domanda vera è: come passerebbe quel messaggio oggi? Lei è un mostro. Pensa questo. Dovrebbe condannare anche tutti coloro che votarono questo mostro, allora. Erano tutti mostri? No, era gente comune che decise di votare un uomo fuori dal comune e di affidargli il destino del proprio paese. Lei si è mai chiesto perché il popolo mi segue? Perché in fondo siete tutti come me. L'antidoto è la memoria, anche messa in satira, come nel film di David Wendt. Si ride, ma lo spirito della risata non supera mai il senso di inquietudine, piuttosto il contrario. Non si può liberare di me. Sono una parte di lei, di tutti voi. Lo riconosca, non sono poi così male. E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Lui è tornato, film diretto dall'impronunciabile David Wendt, spero che si pronunci così, ma ci siamo andati sicuramente vicini, e che arriva tratto da un libro che solo nella Germania ha venduto 2 milioni di copie, è stato tradotto in 17 lingue, tra cui anche l'italiano, e che, come dire, segna un momento molto importante per il cinema tedesco, che ha fatto spesso negli anni recenti i conti col suo passato, però ha fatto prima e ha fatto più facilmente i conti con il periodo comunista, con la Berlino appunto divisa, anche mettendola in commedia con molti film che hanno avuto grande successo. Ha fatto più fatica sicuramente a ridere su quello che è stato il passaggio invece della dittatura hitleriana. E in questo senso, ecco perché è importante questo film, che riesce a farlo con anche la giusta leggerezza che ci vuole in questi casi per raccontare il male assoluto, ma soprattutto per raccontare il nostro oggi, cioè per raccontare come oggi noi prenderemmo, e chissà che già tra le righe non ci sia un pericolo simile, prenderemmo un arrivo di questo tipo. Come i media, piuttosto che enfatizzare, rischierebbero di annacquare un pericolo di questo tipo. E allora, lui è tornato, dicevamo, il primo dei film di questa settimana in sala. Fra poco parleremo di uno spin-off piuttosto interessante che si intitola 10 Cloverfield Lane. Però prima diamo un'occhiata alla classifica sulla quale questi film vanno a insistere, che è dominata ancora la scorsa settimana dal Libro della Giungla. Il live action Disney ha già raggiunto e superato molti suoi avversari nella classifica generale dei film del 2016, quindi quelli usciti dal mese di gennaio. Il Libro della Giungla a 7.800.000 euro di incasso si avvia sicuramente questa settimana a superare Kung Fu Panda 3 e The Hateful Eight nella classifica generale. Insomma, un altro bel colpo per casa Disney. Secondo posto nello scorso weekend per Nonno Scatenato, terzo per Zona d'Ombra con Will Smith, il film sui guai provocati dagli impatti frequenti nel mondo del football americano sui giocatori. Esordisce al quarto posto Roberto Andò, che era stato nostro ospite con Le Confessioni, ma mi piace sottolineare come i David abbiano dato una nuova spinta e nuova forza in classifica a Lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti, che è quinto in classifica nello scorso weekend, che ormai ha superato i 4 milioni di incasso, che insomma sta davvero diventando, come è giusto che sia, uno dei film italiani più rappresentativi di questa stagione. Allora, diamo la linea alla regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo e parliamo di 10 Cloverfield Lane con Boris Sol. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea prosegue con 10 Cloverfield Lane, il film che funge un po', possiamo dire, da spin-off, cioè da costola di un film che nel 2008 aveva un po' cambiato il panorama del disaster movie. Erano gli anni di Godzilla, eccetera, e quel film, lo ricorderete, si intitolava appunto Cloverfield. Raccontava la storia di una festa di ragazzi che diventava una tragedia dentro una megalopoli che veniva calpestata da questo coccodrillone, lucertolone, con tutto il sistema del found footage, cioè del filmato trovato accidentalmente dentro una videocamera. Qui invece J.J. Abrams, che era stato il produttore dell'epoca, sempre in termini di produzione, si sposta su qualcosa di più tradizionale in termini narrativi, ma prende, ed è forse l'unico legame di questo film con il suo capostipite, prende lo stesso evento, la stessa invasione aliena che distrugge la Terra, e prende quel nome, Cloverfield, che diventa il nome della strada in cui si svolge tutta l'azione, appunto l'indirizzo 10 Cloverfield Lane. Una ragazza, Michelle, è turbata, la vediamo all'inizio, appena si capisce che ha appena lasciato il proprio compagno, scappa nella notte e ha un incidente, si risveglia bloccata da delle manette, da un tutore al ginocchio che la ferma contro la sbarra di un letto e non capisce bene dov'è. Arriva qualcosa. No! No! Non farlo! No! Non aprire quella porta! Ci farai uccidere tutti quanti! Vita nel bunker, potremmo dire, avete sentito la clip. La ragazza a un certo punto capisce che, diciamo così, c'è un problema, ma non capisce che c'è il problema che sta distruggendo la Terra. Si mette in contatto con il suo carceriere, che è John Goodman, bravissimo, strepitoso in questo film, e capisce di essere stata di fatto protetta dal suo carceriere, che l'ha inserita con un altro suo coetaneo dentro questo bunker sotterraneo, perché fuori è accaduto qualcosa di terribile e perché, come avete sentito, non bisogna aprire la porta che dà sull'esterno, perché all'esterno non ci si può più stare. Ma i motivi di sopravvivenza e di resistenza all'interno di questo bunker saranno davvero più di uno. Saluto Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Salve Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, ben ritrovato qui alla Rosa. Allora, dicevo, questo Cloverfield, film piccolo, elementare, classico B-movie americano, potremmo dire, però con una sua capacità di far procedere il racconto e anche con un paio di momenti che rimangono abbastanza scolpiti nella memoria dello spettatore. Assolutamente sì, non dirò null'altro sulla trama, uno perché sarebbe delittuoso e due perché ha la semplicità che tu hai descritto. 10 Cloverfield Lane, secondo me, ha una caratteristica principale. Quando Abrams decise di dare a Reeves il progetto Cloverfield, sapeva che avrebbe riscritto il concetto di disaster movie partendo da un film, se non ricordo male, sudafricano, Masters, che aveva avuto un'intuizione simile di raccontare sostanzialmente la distruzione ad altezza d'uomo, no? La distruzione colossale ad altezza d'uomo, e che sostanzialmente cambiava l'angolo visuale dei film catastrofici e fece una piccola rivoluzione di regia, al di là del fan footage, era proprio un'altra visuale da cui noi vedevamo quel tipo di film, come potevano essere Independence Day o Deep Impact, insomma, che era sempre invece una visuale totale, totalizzante. E sostanzialmente quello che viene dato a questo esordiente, David Schachenberg, è più o meno lo stesso compito, cioè provare a riscrivere il thriller psicologico all'interno di un contesto catastrofico. Ed è forse questa la cosa più interessante del film, perché si parte dallo stesso presupposto, cercare di cambiare la grammatica cinematografica di un genere, attraverso una profonda coerenza. Lì era una coerenza visiva nel precedente Cloverfield, e qui è una coerenza narrativa, di scrittura, molto forte, affidata a un cast davvero notevole. Anche Winstead è molto brava, oltre a un Goodman pazzesco, insomma, se non fosse uscito adesso forse potremmo parlare pure di un Oscar per il buon Goodman, e temo che passerà troppo tempo perché se ne ricordi l'Academy, e questo rende il film davvero molto molto interessante, perché quando parlo di scrittura non parlo tanto di dialoghi, che sono, insomma, come dici tu, più o meno da B-movie, comunque non sono particolarmente elaborati, ma da tutta la scrittura dei silenzi, delle scene, del contesto, che fa diventare questo thriller psicologico un nuovo passo un nuovo passo nel genere, cioè un nuovo modo di raccontare una cosa che potremmo inserire tra i disaster movie e anche nell'ambito della riscrittura della sceneggiatura. Ed è questa la cosa più interessante, perché è anche un nuovo modo di fare B-movie, è un nuovo modo di raccontare registicamente e a livello di sceneggiatura quello che eravamo abituati a definire come thriller psicologico. E quindi Ten Cloverfield Lane, secondo me, nell'ambito del suo minimalismo, nell'ambito del suo basso budget, nell'ambito del fatto che racconta una storia che, insomma, abbiamo già visto molte altre volte, cambierà, come aveva fatto Cloverfield allora, il modo di fare questo tipo di film. E sicuramente si farà guardare. Tra l'altro è l'anno delle stanze che hanno un oblò come unico contatto con, esatto, con il cielo che le sovrasta. Pensate a Room, che è stato un dramma di cui si è parlato molto, appunto, anche in chiave Oscar. E allora, questo era Ten Cloverfield Lane, il film con cui abbiamo voluto cominciare questa nostra seconda parte. Adesso invece cominciamo a giocare, cominciamo a sentire la prima clip del film misterioso di oggi. Vieni a sederti qui, orsacchiottone. Preferisco stare in piedi, perché sono stato già molto seduto nel cortile, quindi... E allora, avete capito, avete sentito, avete colto di che film si tratta? Provate a scriverci la risposta alla rosa purpurea @radio24.it. Ci sono in palio due copie del DVD di questo film, che sveleremo la prossima settimana, ma di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo a parlare di cinema italiano, di commedia italiana. C'è un film che si pone un po' come un cinepanettone fuori stagione, potremmo dire. Neanche la Cinecolomba, siamo andati oltre. Siamo al cinepanettone del primo maggio, ovvero La coppia dei campioni di Giulio Base, Massimo Boldi, Max Tortora, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, insomma il classico cast da cinepanettone, per raccontare una storia che si incastra perfettamente con questo mese di maggio, perché, come sapete, come i più amanti del calcio sanno, alla fine di maggio a Milano ci sarà la finale di Champions League. Ebbene, la storia è proprio quella di una sorta di grande nord e grande sud, come sempre un nordista milanista, Piero Fumagalli, si chiama tra l'altro come il nostro amico gestore dell'Arcadia di Melzo, che spesso è stato nostro ospite qui in trasmissione, e Remo Ricci invece, detto Zotta, che fa il magazziniere nella stessa azienda, uomo del sud, insomma due persone, personalità contrapposte, in viaggio verso l'amata finale di Champions, che in questo caso nel film si svolge a Praga, capiscono male il senso del biglietto che hanno in mano e si perdono sostanzialmente. Questo è un po' il plot, chiaramente tutto un pretesto per provare a strappare qualche risata. Sentiamo. Raddrizzi il sedile e non telefoni durante il volo. Scorreggetta, posso fare? Allora, Madonna, ma dove siamo qui? Noio, dove andare? Praga, na Indie. Ah, hai capito? Na minchia. Come la trovo de merda, fumagata. Come vuoi che mi svesti? Diciamo, a minchia ante dolce bottana. Ciao. Lei non sta bene, eh? No. No. Boris, cinepanettone fuori stagione o recuperiamo qualcosa di questo film? Ma che cosa dire, è un film fuori tempo, nel senso che dopo la vittoria ai David Perfetti Sconosciuti si fa fatica a commentare una commedia con questa impostazione anacronistica sostanzialmente, perché torniamo indietro di decenni o forse comunque di anni. Non solo al modello del cinepanettone, ma forse a un modello ancora più elementare, che è quello del modello regionale, il modello Fratelli d'Italia, che film geniale, anche lì c'era un contesto calcistico, bisogna andare a vedere Roma-Milan, anche lì c'era Boldi, anche lì c'era un contatto piuttosto rubido tra un romano e un milanese. Boldi ripete per l'ennesima volta il personaggio che ha fatto sia al cinema che in TV, cioè quello del milanese più o meno Cumenda che si ritrova con il romano un po' più burino, illuminante insomma la scena del trailer in cui Tortora alla hostess chiede se può almeno, visto che deve chiudere il cellulare, può almeno prodursi in una flatulenza non proprio piacevole, che è anche il termine e la cifra stilistica poi del film che andremo ad affrontare. Deve proprio piacere, diciamo, agli amanti vintage il genere, perché il problema del film è che da una parte abbiamo la prevedibilità del personaggio di Massimo Boldi, che ormai potremmo scrivere anche noi per quante volte l'abbiamo visto e sentito. E dispiace, perché Boldi secondo me è uno straordinario talento che forse non si è capito neanche lui in tanti anni, e che all'inizio della sua carriera era evidentissimo e che poi si è appunto annacquato nella reiterazione e nella ripetizione di un ruolo che è diventato sempre meno divertente. Dall'altra parte poteva fare la differenza il personaggio di Zotta, il Che Guevara di Torpignattara, un uomo che almeno in fase di soggetto aveva un aspetto interessante, che era quello del burino, sì, ma con tanti sogni che poi erano stati traditi, con una sorta di patina culturale che poteva esserci e che poi invece si è tradotta nella classificazione del romano più classico. Zotta poteva essere scritto molto meglio, anche per sfruttare le diverse espressioni ed espressività di Tortora, che è uomo di grande talento e attore anche bravo quando sa essere usato, e invece viene banalizzato secondo lo stesso stilema del personaggio di Boldi. Alla fine esce fuori un film davvero povero e soprattutto incredibilmente scontato e prevedibile, per cui l'unica soddisfazione che si può avere dalla Coppia dei Campioni è esattamente quella di avere qualcosa che ci si aspetta e di ridere in quelle 4-5 occasioni telefonatissime, ma che magari, no, a chi piace la ritualità del cinepanettone e simili può pure andare bene, a tutti gli altri mi sento davvero di non consigliarlo. Staremo a vedere un po' quello che sarà l'esito al botteghino. Il film esce con una distribuzione piuttosto importante, 350 copie nel primo weekend, ne abbiamo parlato, abbiamo voluto sviscerarlo, non perché ci fossero delle sorprese particolari, ma proprio per analizzare come questo tipo di prodotto, che come hai detto giustamente tu possiamo definire anacronistico, si comporti in sala oggi nel 2016, uscendo a maggio, che è un po' una stranezza, se vogliamo. Adesso allora diamo la linea alla regia, fra poco torniamo, saliamo sicuramente di tono, almeno cinematografico, con una commedia francese che si intitola Benvenuti, ma non troppo. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con una commedia francese, quasi a dire, le abbiamo legate un po' per quel motivo, quasi a dire che si può fare commedia proprio per ridere, però stando magari su qualcosa che appartiene un po' di più a quelli che sono i temi, le istanze, insomma, che la società contemporanea ci mette sotto gli occhi. È quello che prova a fare Alexandra Leclerc con Karim Viard e Valérie Bonneton nel cast. C'è anche Josiane Balasco, una bella riscoperta, con benvenuti, ma non troppo. Se il coefficiente di condivisione è uguale o superiore a 50, l'appartamento rientra nella categoria degli appartamenti condivisibili e si ha l'obbligo di accogliere nell'abitazione dei residenti supplementari. Il decreto è passato, la grande condivisione è diventata realtà. Se solo tu mi avessi dato due bambini in più. Buongiorno. Christine Dubreuil. E se volete restare, dovete fare tutti quanti il bagno. No. Eh sì. Che ci vedi a condividere il tuo spazio con un estraneo, eh? Non sopporti che lavi la tua biancheria con quella di nostra figlia. Pronto? Una signora con un cane. Di che razza? Non il cane, la signora. E avete sentito, insomma, la cifra è sicuramente più surreale. Il plot è elementare ma geniale. In un inverno molto rigido in Francia, il governo decide che i cittadini proprietari di appartamenti con stanze libere dovranno accogliere le persone più disagiate che non possono permettersi un alloggio. E immaginate che cosa viene fuori, chiaramente. Il dovere, l'essere obbligati a ospitare qualcuno in casa propria, e qualcuno che spesso non si è neanche scelto, darà vita a tutte quelle che sono appunto le scintille che animano questo film. Dicevo, Boris, la dimostrazione che se metti una cifra di racconto che sia un po' meno terra terra, puoi ridere anche su qualcosa che ti appartiene di più. Sì, c'è da dire che sono abbastanza contento di poter parlare di questo film, perché sicuramente non ci accuseranno di avere dei pregiudizi verso i cinepanettoni italiani, perché qui abbiamo una differenza sostanziale con La Coppia dei Campioni, che è un soggetto interessante. Il soggetto interessante di cui parliamo è appunto quello che tu hai descritto, a cui aggiungo semplicemente come elemento di trama che gli ospiti, gli ospitanti che noi seguiamo sono una coppia di destra sostanzialmente, un'altra coppia invece di radical chic, bohemien, di sinistra, che hanno una visione più aperta, apparentemente aperta della vita rispetto ai loro colleghi borghesi che leggono Le Figaro. Detto questo, però, il problema di Benvenuti ma non troppo è che, partendo da questo soggetto anche interessante, anche molto attuale, e partendo anche da una tesi sostanzialmente, che poi le meschinità e gli altruismi sono imprevedibili nonostante i contesti politici e sociali in cui si sta, e che spesso chi si dichiara diverso sul piano politico e culturale poi così diverso non è, e si perde in una banalizzazione, in una serie di cliché. Da una parte cinematografici, cioè i caratteristi che vengono usati e le caratterizzazioni che vengono usati tipicamente francesi sono anche in questo caso abbastanza prevedibili, e dall'altra addirittura narrativi, come ci è capitato in altre occasioni di vedere, i borghesi francesi sono molto attirati, no, dall'aspetto sessuale dei proletari che possono portare avanti, che è il classico stereotipo, no, della donna annoiata che cerca magari una distrazione. Dall'altra parte troviamo una serie di stereotipi sui poveracci, tra virgolette, anche molto tranciante la terra, no? A seconda della provenienza geografica, c'è, cioè, chi è ladro, chi è più cafone, e via dicendo. È sicuramente scritto meglio della Coppia dei Campioni e ha delle intuizioni migliori, Però anche rispetto ad altri prodotti che vengono da oltralpe, viene in mente che film come Non sposatele i miei figli o come il più recente Il condominio dei cuori infranti raccontano il rapporto con l'estraneo in maniera più complessa, pur non essendo complicata, e più sensibile. Qui siamo dalle parti di una commedia che invece sceglie sempre la strada più facile, e quindi poi forse alla fine, così diversa dalla coppia dei campioni, se non nelle premesse, non è poi così tanto, perché c'erano tanti elementi in più che si potevano utilizzare e che invece rimangono dormienti. E forse il delitto maggiore di Benvenuti ma non troppo è che il rapporto tra due mondi così diversi alla fine viene sacrificato sull'altare delle dinamiche sentimentali delle famiglie protagoniste, quindi la scelta purtroppo più banale. Alla fine devo dire che anche in questo caso la consiglio agli appassionati di quella commedia francese, anche quella piuttosto anacronistica, insomma, che non che Leconte saprà fare estremamente meglio e con molto più gusto. E allora, Benvenuti ma non troppo, quindi piaciuto ma non troppo al nostro Boris Sollazzo, che, come dire, rimane comunque la proposta, se vogliamo, almeno per quanto riguarda il cinema europeo di questa settimana, con qualche carta in più da giocare sul grande pubblico. Diamo un'ascoltata alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Perfetto. Allora ci somiglia. Dice, se ci somiglia, è identico. Ancora un piccolo dettaglio. E voilà. E voilà, allora avete indovinato di che film si tratta? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Vi ricordo sempre di inserire anche il vostro nome, cognome e indirizzo per facilitare poi le operazioni di spedizione dei due DVD che verranno svelati, dei due vincitori che verranno svelati la prossima settimana. Non manca l'animazione anche in questo ricco weekend cinematografico. Arriva nelle sale italiane Fuga dal pianeta Terra. Ci dica che cosa si prova a essere il più grande eroe dell'universo. Niente domande, solo foto. Ah! Oh! Yeah, baby! Che cosa umiliante. Ti pensi che abbia inventato internet, i cellulari, i social network? Siamo stati noi! Gli umani ce l'avrebbero fatta da soli? Io non credo proprio. Fate silenzio! Questa notte non ho chiuso occhio! E chi l'ammazza, Scorcio Supernova? Si torna sul tema dei mostri, degli alieni, delle invasioni, tema molto caro a tanta animazione dell'ultimo decennio, per intenderci. Stavolta Carl Brunker dirige, con il cast vocale originale Brendan Fraser, Jessica Alba, Sarah Jessica Parker, un film appunto che racconta di un famoso viaggiatore spaziale del pianeta Bab, un eroe che grazie anche alle grandi capacità intellettive del fratello cervellone Gary praticamente piomba sulla Terra e soprattutto cerca a un certo punto con i suoi consimili di scappare dalla Terra, che evidentemente si rivela essere un posto meno accogliente di quello che ci si poteva aspettare. Boris, c'è del nuovo sotto il vestito sempre scintillante di questa animazione da computer graphic? No, mi viene da ridere perché mi sembra di stare in un weekend dei primi anni della nostra collaborazione, quindi una decina d'anni fa, perché effettivamente tutti i film potrebbero essere messi, o tutti o quasi, insomma Cloverfield è esattamente il contrario, potrebbero essere messi sotto la categoria anacronismi. Anche Fuga dal pianeta Terra, nonostante anche qui un buon soggetto, cioè, e se gli alieni fossimo noi, cioè se noi dovessimo guardare il nostro mondo dagli occhi di chi non è mai tornato dall'esplorazione dello stesso, che cosa succederebbe? Bello, interessante. E poi però il problema è che visivamente si prende a piene mani da DreamWorks. È bellissimo che sia possibile adesso fare film d'animazione senza essere una major americana, cioè che il monopolio dell'immaginario dell'animazione si sia profondamente esteso e possa essere fatto con profitto e efficacia produttiva anche fuori da quei due o tre contesti a cui eravamo abituati. Il problema è però se tu non ti stacchi dal modello, ma anzi vai a saccheggiare, a vampirizzare tutto quello che hai visto in precedenza. Penso nel caso di questo film a Planet 51 per quanto riguarda la trama anche se rovesciata, e a Megamind per quanto riguarda l'estetica. Il problema di Fuga dal pianeta Terra poi è anche una sceneggiatura estremamente elementare e raramente interessante, che non sa neanche decidersi se essere uno sguardo sugli spettatori più piccoli o un ammiccamento invece a quegli adulti che cercano anche un'animazione ironica più approfondita. E alla fine è l'impressione, con Fuga dal pianeta Terra, di aspettare continuamente l'inizio del film, nel senso l'arrivo del salto di qualità, quello che ti fa diventare una buona storia, un grande film d'animazione. A differenza degli altri di cui abbiamo parlato, può essere comunque un buon prodotto per un pubblico che voglia intrattenersi senza pensare troppo, però francamente, con tutta l'animazione che abbiamo, con tutta la sperimentazione che abbiamo visto nell'ambito dell'animazione, è il classico film che vi dimenticherete abbastanza presto, che può essere visto magari all'uscita in DVD in un pomeriggio, sperando che i figli si tranquillizzino magari se sono troppo inquieti. Quando parlo di anacronismo è proprio questo, cioè quando si è andati così avanti, vedere un film del genere ti lascia una sensazione di passato, di sorpassato soprattutto, ecco. E speriamo che i prossimi film piacciono al nostro Boris Sollazzo. Abbiamo fatto delle scelte evidentemente che lo hanno messo in crisi questa settimana. No, è che purtroppo in questi periodi non è che ci siano tantissimi. No, assolutamente, film, cioè assolutamente. Più si va verso l'estate, più, anche secondo me sbagliando produttivamente e distributivamente, si cercano scelte magari anche più, che si pensano essere più sicure. Sì, adesso non... diciamo che gli ultimi colpi arriveranno dal Festival di Cannes per quanto riguarda le novità eccetera, ma sono film che ovviamente prima di arrivare nelle sale italiane avranno bisogno di qualche periodo, anche se qualcosa uscirà anche subito. È anche questa una settimana nella quale c'è del cinema d'autore particolare, penso a Sole Alto, penso alla Memoria dell'Acqua, penso alla Foresta dei Sogni, così devo dire, però è anche vero che sono tutti film che escono con una distribuzione difficile, almeno per quanto riguarda il raggiungimento del grande pubblico, e noi qui alla Rosa cerchiamo sempre anche un po' di mediare fra la popolarità, la possibilità di essere visti e anche ovviamente la qualità del cinema. Però abbiamo ancora una cartuccia, fra poco proviamo a sentire, e non ce lo anticipare Boris, il parere di Boris Sollazzo su The Dressmaker, prima la viabilità. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, andiamo avanti con The Dressmaker, un altro dei 13 film che arrivano in sala questo fine settimana, nel cast Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis e anche Hugo Weaving, per raccontare una storia che dal titolo italiano, anzi dal sottotitolo italiano, Il diavolo è tornato, e dall'abito di Kate Winslet nella locandina, occhieggia molto al Diavolo Veste Prada di qualche anno fa. Vedremo se è così, sentiamo la clip. Tilly Dannage, sei cresciuta. E tu sei invecchiata. È tornata la stronza. Raccontami dove sei stata. Ho lavorato a Londra, a Milano, Parigi. Credo tu sia tornata per una di queste due cose. Per vendetta o per me. Gertrude, ti voglio vedere in tiro al ballo di sabato. Un vestito non può cambiare nulla. Guarda e impara, cara. Guarda e impara. Posso trasformarti in una strafiga spaziale. Insomma, avete capito che il mondo di cui si parla, in cui ci si muove, quello della moda, ambientato nel 1951, la storia di una stilista che ha lavorato con i più grandi atelier europei e poi torna nel suo piccolo paese del sud-est dell'Australia dopo una ventina d'anni d'assenza. Boris. Beh, l'inizio e la fine di questa trasmissione mi danno molta soddisfazione, perché Cloverfield mi è piaciuto molto e anche Dressmaker mi è piaciuto molto, così almeno posso parlare senza sembrare l'orco cattivo, anche se è pieno di orchi cattivi il mondo di Kate Winslet in The Dressmaker. Purtroppo è anche pieno di brutti film, ecco. È pieno di brutti film, è vero. Però il problema, il bello di Dressmaker è che va esattamente in controtendenza rispetto a quello che abbiamo detto prima. Qui il soggetto non ha nulla di nuovo, una donna che torna nella sua provincia, provincia ottusa, meschina, perché i successi che ha avuto fuori non gli sono bastati. Lei deve ristabilire la verità su se stessa e deve riscattarsi in quel piccolo posto. New York, Parigi non gli sono bastati, deve tornare tra quelle poche decine di persone che invece l'hanno maltrattata. Abbiamo visti tantissimi e letti anche tantissimi di film e libri che parlavano di questo argomento. Però qui abbiamo due soluzioni straordinarie. Uno è un regista che non faceva film da un bel po' di tempo, che viene da molto lontano, dall'Oceania, e che decide di infilare all'interno di un film apparentemente solo sulla moda una serie di generi apparentemente incompatibili, e che fa scelte visive rivoluzionarie, potenti, anche urticanti in alcuni momenti. Quello che sono più legato in Dressmaker è quella iniziale, in cui arriva Kate Winslet in uno scenario quasi tarantiniano western e utilizza la sua macchina da cucire come se fosse un fucile. Hai proprio l'impressione che qualcuno dica, cioè, quando una donna con i ferri incontra una donna con la macchina da cucire e sappiamo come potrebbe andare avanti. E qui i punti di forza, chiaramente, uno è Kate Winslet qui secondo me dimostra che può fare veramente tutto. Qui è sexy, è cattiva, arriva a un livello di melodramma e sentimentale che vi farà piangere forse più di Titanic, e poi nel finale assume un'altra faccia addirittura, altri lineamenti per sottolineare quell'epilogo che è davvero imprevedibile, anche nella sua crudeltà, ma allo stesso tempo entusiasmante. I caratteristi che tu hai raccontato con i nomi degli attori sono veramente molto azzeccati, e la storia, la scrittura di dialoghi in particolare è fatta veramente col cesello, volendo dirla insomma con come la direbbe Kate Winslet, è cucita alla perfezione. Non è un capolavoro di Dressmaker, però è il classico film in cui tutti fanno quello che devono fare, in cui c'è una mattatrice straordinaria e in cui tu non riesci a staccare gli occhi dallo schermo. E francamente io al cinema non è che chieda molto più di questo. E allora, evviva, siamo riusciti a chiudere in bellezza con The Dressmaker. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La voce che sentite registrata dal vivo al teatro a Londra per il musical Sunset Boulevard nel West End con Glenn Close, per raccontarvi di questo straordinario spettacolo che ho avuto il piacere di vedere lo scorso weekend. Non c'era Glenn Close, abbiamo avuto un po' di sfortuna, aveva problemi di salute, per 3 o 4 recite non ha recitato lei, ma ha recitato Rhea Jones, che è una star assoluta del West End londinese, cantante superlativa. Uno spettacolo veramente fantastico, tratto dal film Sunset Boulevard, Diale del Tramonto, un film che aveva raccontato, tutti lo sanno, la storia di Norma Desmond, un'attrice del muto che è caduta un pochino in disgrazia perché l'avvento del sonoro ha cambiato sotto i suoi piedi il mondo del cinema. Ebbene, quello straordinario film di Billy Wilder è diventato un musical di Andrew Lloyd Webber a metà degli anni 90, torna in scena a Londra con Glenn Close, la potete vedere dal vivo fino al 7 di maggio, è davvero un'occasione unica in uno spettacolo straordinario, quasi 60 professori d'orchestra sul palco, un film, un musical dalle melodie puramente figlie della grande arte di Andrew Lloyd Webber. Pensate a Cats, pensate a Jesus Christ Superstar, pensate al Fantasma dell'Opera. Ebbene, questa segnalazione ve la dovevamo, perché davvero, se potete, se ce la fate, è uno spettacolo andare a vedere. Dopo il 7 maggio non ci sarà più Glenn Close, ma lo spettacolo proseguirà con un altro cast al London Coliseum di Londra. Andiamo avanti adesso per parlare di tutto il cinema che c'è da vedere in casa, cominciando con il risolvere il game della scorsa settimana. C'era una signora che aiutava mia madre con il bucato. Si chiamava Maria Concepción. Tanti anni fa, dall'altra parte del mondo, io la guardavo stendere i panni e lei mi raccontava le storie della guerra. E allora, avevamo giocato con Chiamatemi Francesco, il film di Daniele Lucchetti della parte iniziale di questa stagione, che raccontava la storia sconosciuta, quello almeno meno conosciuta, di Papa Francesco. Un film veramente molto molto bello, con il quale abbiamo voluto giocare, che hanno riconosciuto per primi Roberto Lazzaroni di Colle Salvetti, provincia di Livorno, e Maria Cattarelli di Botticino Sera, provincia di Brescia. Saranno loro a ricevere la versione in Blu-ray di Chiamatemi Francesco, che ci facciamo raccontare con tutti i suoi contenuti speciali da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Un Santino ha due dimensioni, il primo film su Papa Bergoglio per Daniele Lucchetti ne ha tre. C'è il cardinale in attesa del responso del conclave nel 2013, il giovane prelato nell'Argentina degli anni 70 e poi il vero Papa nelle immagini di repertorio che seguono la fumata bianca, con il suo esordio dirompente che ne ha fatto uno dei maggiori comunicatori del contemporaneo, subito con quel suo Fratelli e sorelle, buonasera. Il film è diviso in capitoli con una scansione cronologica e si concentra soprattutto sugli anni argentini. Racconta il pontefice umano, l'amore per il tango, per il calcio, per la fidanzatina di gioventù, e insiste sul ruolo giocato da Bergoglio a inizio carriera ecclesiastica nella protezione dei soggetti invisi al regime di Videla. È un ritratto rassicurante di rafforzamento dell'immagine pubblica che rivela l'icona di Bergoglio, anche se l'icona del Papa sicuramente è molto più potente. Il Blu-ray è un Blu-ray canonico, scarnano i contenuti. E allora, questo è il nostro game della scorsa settimana. Dalla televisione abbiamo voluto scegliere una serie di film di Buster Keaton che saranno trasmessi dalla Rai nella notte, su Rai 3, nella notte fra domenica 1 maggio e lunedì 2 maggio. Giulio. Sì, Fuori Orario dedica due notti a Buster Keaton. Si comincia domenica alle 1.15 con La palla numero 13, che è il titolo italiano del suo più grande capolavoro, che è Sherlock Junior. Si prosegue con Go West, Io la vacca, poi Il generale, Come vinsi la guerra, e poi un piccolo corto con Coney Island diretto dal grandissimo comico che fu lo scopritore di Buster Keaton, che è Roscoe Arbuckle. Mentre lunedì Fuori Orario presenta un programma di corti, che sono 5 corti, tra cui mi piace sottolineare la presenza di Cops, che Keaton girò al tempo del processo al proprio padre putativo, Fatty Arbuckle, che in quel periodo era accusato d'omicidio e stupro, e il film ne porta, nonostante sia una comica assolutamente folgorante, ne porta ancora i segni e gli umori. Quando in The Dreamers di Bertolucci chiedono se i personaggi preferiscono Chaplin o Keaton, io quella domanda non ho mai avuto tentennamenti, non ho mai avuto dubbi, perché per me Keaton per tutta la vita è una maschera tragica, un corpo elastico, una sorta di acrobata della caduta. Keaton è veramente stato un regista e un corpo attoriale capace di fare poesia del movimento, creare gag matematiche, sfidare la gravità e mettere sempre in forza, in maniera molto anche surrealista, i punti di fuga rinascimentali delle immagini. È una buona occasione questa per recuperare veramente dei capolavori che non andrebbero mai dimenticati. E allora, un'occasione che ribadiamo nella notte fra il 1 maggio e il 2 maggio, 4 film di Buster Keaton su Rai 3, poi potete guardare tutti i dettagli anche su internet. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora abbiamo finito, le note della sigla ce lo dicono, resta il tempo di darsi appuntamento a settimana prossima, come sempre il sabato alle 18 qui su Radio 24, per raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.